Vincenzo da Napoli, ma lei perdonerebbe Hamsik dopo questa uscita? Cioè, se facesse marcia indietro o se De Laurentiis non trovasse questa proposta indecente per strada e dunque rimanesse col 17 color del cielo, sarebbe sì, perdonato? Allora. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Salve. Allora, io vorrei fare un appello a tutti i tifosi del Napoli. Qual è? Cioè, praticamente a noi il presidente non ci ha regalato altro che gioie, no? Sì. Da quando è arrivato, quindi dobbiamo solo fidarci del presidente e andare avanti. E poi vorrei ringraziare Hamsik per quello che ha fatto e salutarlo, perché poi Napoli vive di pane e calcio, non è sì. che vive di altre cose. Ma quello che le chiedo e io è dire... Hamsik con queste dichiarazioni ha rotto con Napoli, anche se, cioè se resta sì. potrebbe sì. avere allora, fischi o potrebbe avere una vita difficile a Napoli? Se queste parole sono state dette da Hamsik, Hamsik ha rotto con il Napoli. E da chi se no? No, io non ne sono sicuro perché non l'ho letto e lo sto sentendo per radio, però se effettivamente queste parole è un'intervista di Hamsik, Hamsik ha rotto con il Napoli e se ne va dal Milan, perché poi, le ripeto, Napoli vive di calcio, di pane e di calcio. Ah. E nel momento in cui un giocatore dice voglio andare al Milan, che sinceramente proprio non dice voglio andare al Genova, che è un nostro gemellato magari. Sì, sì, sì, voglio sì. andare dal diavolo e il diavolo non è esattamente nemico del, amico del ciuccio, lo sappiamo bene per antiche storie di Campanile, bellissime peraltro.